Per il calcio, alla fine avrebbe chiesto scusa Mario Balotelli sul sito dell'Inter. Si è scusato per le tensioni degli ultimi tempi e così torna a disposizione del tecnico Mourinho. Alle 8:34 minuti parliamo dunque di donne in politica e non solo, di quote rosa. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Quote rosa che per qualcuno sono una via, beh, certamente sicura per far aumentare il numero delle donne coinvolte in politica, non solo nei ruoli decisionali. Ci vorrebbero le quote rosa? Ne voglio parlare, ne parliamo innanzitutto con due consigliere regionali e neoelette, Augusta Montaruli, buongiorno. Buongiorno. Per il Popolo della Libertà in Piemonte. E voglio salutare invece per la Regione Liguria, Italia dei Valori, Maruska Piredda, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, benvenute, anche se io devo iniziare doverosamente da un pezzo che è uscito il 27 marzo sul Fatto e che ha suscitato, non lo so, vedremo che cosa. Il titolo: donne, guaio senza soluzione. Le donne sono una razza nemica, bisognerebbe capirlo subito. Invece ci si mette una vita quando non serve più. Mascherate da sesso debole sono quello forte. Attrezzate per partorire sono molto più robuste dell'uomo, vivono 7 anni di più anche se vanno in pensione prima. Hanno la lingua biforcuta, l'uomo è diretto, la donna trasversale. L'uomo è lineare, la donna serpentina. E più avanti, la donna è baccante, orgiastica, dionisiaca, caotica. Per lei nessuna regola, nessun principio può valere più di un istinto vitale, quindi totalmente inaffidabile. Per questo, per secoli o millenni, l'uomo ha cercato di irregimentarla, circoscriverla, limitarla, perché nessuna società regolata può basarsi sul caso femminile. Ma adesso che si sono liberate, sono diventate insopportabili, micragnose, burocratiche, causidiche. Su ogni loro preteso diritto han perso, per qualche carrieruccia da segretaria, ogni femminilità, ogni dolcezza, ogni istinto materno nei confronti del marito o compagno che sia, e spesso anche dei figli quando si degnano ancora di farli. Stan lì a chiagne ogni momento sulla loro condizione di inferiorità e sono piene zeppe di privilegi. Massimo Fini, buongiorno. Ha scritto sto pezzo. La mail com'è? Pare inondata di... È inondata di insulti, ma non solo. Anche di non insulti di qualche donna. La nostra Sara Spreafico in redazione, ma lei fa la filosofa, dice che in realtà è una vera dichiarazione d'amore nei confronti del gentil sesso. No, ma in realtà è il pezzo che poi si rifà un libro scritto anni fa, Dizionario erotico, manuale contro la donna a favore della femmina. In realtà, se lo si legge bene, è un pezzo a favore della donna, a cui si riconosce una molto maggiore vitalità dell'uomo. La donna che procrea appunto è vitale, onestamente l'uomo è la donna, è la vita, l'uomo è la legge, il diritto, il rigore, la morte, un fuoco malinconico e transeunte, mentre la grande protagonista del gioco della vita è lei. Questo è il senso di fondo. Poi c'è il fatto che effettivamente oggi, da quando si sono liberate, si sono appiattite completamente sul modello maschile, diventandone una sorta di patetica parodia, e hanno perso molto della loro sapienza femminile, anche nel senso, la sapienza delle loro nonne, a cui bastava far vedere una caviglia. Quindi voglio dire, è un pezzo a doppio taglio, perlomeno. Sì, almeno questo nella sua genesi, forse poi si è tramutato in una... Beh, poi io rispondo domani se volete divertirvi. Vabbè. Ma guardi che non è finita, tanto stasera Giuseppe Cruciani ieri sera ha già detto che stasera la rivorrà in diretta e vorrà scatenarle contro, no, un po' di donne. Però intanto qua si parla di quote rosa. Certamente. In politica. Allora, lei come la vede queste delle quote rosa? Ci sono due consigliere molto agguerrite. Lo immagino. Per fortuna siamo a distanza. No, anche perché qui si può essere accusati subito di... Beh, niente. Le quote rosa io lo vedo come un insulto alle donne. Come se fossero una specie da proteggere, tipo panda. Penso che in politica, come in ogni altra cosa, ci debbano andare soggetti meritevoli, uomini, donne o altri sessi che siano. E quindi ripeto, non ha, a mio avviso, la donna bisogno di essere in questo campo perlomeno protetta. Poi più in generale penso, ma naturalmente ognuno è libero di fare quello che vuole, e penso che le donne in politica siano uno spreco, che abbiano cose uno ben, spreco, più, sì, ben più interessanti da fare. Ah, però tanto più che, ripeto, tranne qualche rara eccezione, anche perché vengono a inserirsi in un mondo che è maschile comunque, o è stato maschile, non solo la politica, eccetera, si sono appiattite, non è che abbiano portato al loro quantum di femminilità. Si sono appiattite sugli uomini. Si sono appiattite sugli Beh, interessante, vorrei sapere da Maruska Piredda e da Augusta Montaruli, vorrei partire, Maruska Piredda, non so se volete commentare l'articolo, tanto siete a distanza, allora, no? Al telefono. L'ho letto e sì, devo dire mi è piaciuto, mi ha fatto anche sorridere. Ma sì, ma fa sorridere se lo si prende nel verso sì, giusto. E poi concordo con l'analisi fatta dallo stesso autore, perché in effetti insomma si sottolinea veramente la vitalità della donna in questo articolo, poi in alcuni punti devo dire anche ironico quando si parla, no, di tutti questi privilegi di cui gode la donna. Però ecco, devo dire, mi è piaciuto, non ho voluto leggerlo con occhio critico. Però dice Fini, siete uno spreco le donne. Esatto. Allora, beh, io intanto vorrei prima di tutto riallacciarmi alla questione delle quote rosa. Sì. Allora, sono d'accordo sul fatto che le quote rosa analizzate così, senza contestualizzarle, diciamo così, territorialmente, possono sembrare un'offesa al genere femminile, sono d'accordo, tanto è vero che poi solo in Italia vengono chiamate quote rosa, dalle altre parti sono comunque quote di genere, però è vero che purtroppo noi dobbiamo rifarci al paese in cui siamo, che è l'Italia, che si colloca come presenza femminile non soltanto in politica ma anche nelle industrie nettamente inferiore rispetto agli altri paesi dell'Unione Europea, e che siamo nettamente sotto il 20%, quindi bisognerebbe fare per cercare di incentivare la presenza femminile nella politica, che secondo me non è comunque un campo che la donna debba necessariamente precludersi. No, ma questo però sono d'accordo, ha detto, le donne in politica in realtà si sono trasformate, cioè non hanno portato quel tocco di femminilità o comunque quella parte che le differenzia necessariamente dall'uomo, ma si sono tra virgolette mascolinizzate. Appiattite. Vediamo se su questo Augusta Montaruli del PDL, ripeto, in Piemonte. Lei intanto so che sulle quote rosa la vede diversamente, da Maruska Piredda dice no. Però sì, io non sono assolutamente d'accordo con le quote rosa, ecco. Lei che fa politica da tanti anni, tra l'altro, no? Una lunga esperienza. Sì, io ho 26 anni, ho iniziato più di 10 anni fa, quando avevo 16 anni appunto, a fare politica a scuola e poi nell'università, e quindi ho sempre pensato che la politica in particolare dovesse scegliere la propria classe dirigente sulla base di requisiti che non è certo il genere femminile oppure il genere maschile, ma altri criteri come appunto il merito innanzitutto, la coerenza delle idee e delle azioni e l'onestà. Questi sono i tre requisiti. Essere donna non è un prerequisito per fare politica. Però uomo o essere giovane o altre caratteristiche. Le vorrei sottoporre, oltre all'articolo di Massimo Fini, sa, ieri come ha titolato Libero, per il fatto che su 186 consiglieri regionali del PD 163 sono uomini, e dunque la stragrande maggioranza, Libero ieri ha titolato così, io in rassegna stampa non ci potevo credere, al PD non piace la gnocca. Questo è il titolo, ecco, per dire che ci sono tanti uomini e poche donne. Io non lo so. Ecco, che approccio è Montaruli? Un approccio che le piace? Lo chiedo a lei perché, insomma, Libero è orientato a centrodestra. Quindi, che ne pensa di un titolo? Ma al di là del titolo provocatorio, sempre stante la mia contrarietà nei confronti delle quote rosa, c'è un dato di fatto, che ci sono dei partiti che non hanno preclusioni, secondo me, nei confronti delle donne, ce ne sono altri invece che purtroppo evidentemente ne hanno. Lo dimostra anche un determinato atteggiamento, no, di una certa sinistra, che ogni qualvolta una donna riesce ad avere un minimo di successo viene tacciata come ovelina o con altri appellativi poco simpatici, quando invece si è arrivata a determinati posti e soltanto, secondo me, per merito e per anche le capacità e per il valore aggiunto che può dare in politica, cioè, a sinistra lei dice non, le donne non le considerano così importanti poi in politica. Ovviamente non si può generalizzare, però è chiaro che determinati slogan e determinate campagne mediatiche in cui si sono accusati negli ultimi mesi le donne delle sinistra, le donne di destra, di essere tutte veline piuttosto che ma lo sappiamo, guardi, lei non si offenderà Montaroli, ma forse il grande pubblico l'ha conosciuta in una puntata di Anno Zero, no? Ma tra poco magari la facciamo sentire. È colei che ha zittito Travaglio, capito, Massimo Fini? È colei che ha zittito Travaglio, l'Augusta Montaroli. Bravissima, perché è difficile e pericolosissima, direi. Comunque il vero mi dispiace per la Marulli, ma il vero titolo maschilista, oltre volgarissimo, è quello di Libero. Insomma. Sì, beh, al PD non piace la gnocca, non è un bel titolo per riassumere. Non è neanche nemmeno vero, nel senso, se intendiamo donne, perché le prime donne in politica, penso all'Anselmi, ma penso anche a una che a me è sempre molto piaciuta, che è Rosy Bindi. Sono di sinistra, di sinistra, diciamo. Sinistra. Allora dobbiamo andare a dare il traffico, poi rientriamo anche qualche ascoltatore, ascoltatrice, magari diamo la precedenza, insomma, così che vediamo che ne pensano anche di Massimo Fini e del suo articolo. Il traffico, rientriamo. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Vorreste le quote rosa in politica? C'è da dire che prevalgono i no al 68% votando su radio24.it o il sole24.com. Voglio andare a Perugia da Clara. Buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Clara Sereni e sono stata vice sindaco della mia città. Ah, certo. In un consiglio comunale composto da 40 maschi, 41 con il sindaco. Oh, che fortuna, che dobbiamo dire, che fortuna, che sfortuna. Com'è andata? Allora, insomma, è stato molto faticoso, anche perché all'epoca, molto prima che si parlasse di mobbing, io proposi un provvedimento contro le molestie sessuali all'interno del comune, e vi lascio immaginare quale fu la discussione. Certo. Ecco, allora, però, al di là di questo, io non potrei tanto rispondere a Fini se non su una cosa, ma sono assolutamente favorevole alle quote rosa, purché questo avvenga a tutti i livelli. Non semplicemente ai livelli apicali delle candidature più visibili, ma lungo tutto il percorso, quindi dal circolo, la sezione o come si chiama, in su. Perché se no inevitabilmente si diventa nominate e in qualche modo costrette ad essere protesi dei maschi. Anche perché se siamo troppo poche, se le donne nei luoghi di potere sono troppo poche, non possono che adeguarsi a un linguaggio maschile. A questo proposito, l'appiattimento, lei è riuscita a portare quel quantum femminile a cui faceva riferimento Massimo Fini in politica, o si è appiattita inevitabilmente ai 41 che la sovrastavano? Beh, alla fin fine sì, nel senso che usando per esempio un mio linguaggio anziché il politichese, ero trasparente. Cioè, fino a che non ho picchiato i pugni sul tavolo ululando, dicendo anche qualche parolaccia, c'era proprio una difficoltà addirittura di ascolto. Non l'ascoltare. E poi c'è stata la difficoltà di portare avanti qualunque battaglia, proprio perché le donne comunque sono troppo poche. C'era una battaglia in modo specifico, perché lo statuto comunale prevedeva le quote. Dalla sera alla mattina le si andava cancellando per difendere questo famoso articolo 40. È stato molto difficile costruire delle alleanze. In quel momento ho vinto su questo mi sono giocata un terzo della mia poltrona e appena sono andata via comunque questa norma è stata cancellata. Eh beh certo, e questo mi sembra abbastanza un percorso circolare, insomma. Grazie Clara Sereni da Perugia. Allora, io vorrei farlo sentire a questo punto l'Augusta Montarulli arrabbiata, sentiamola dando zero. O Travaglio non riusciva a spiccicare una mezza parola, Mi sto domandando per te, che stai in politica nel centrodestra. No, io guardi, la politica l'ho iniziata a fare 10 anni fa. Per me la politica è militanza, per me la politica è impegno, per me la politica è sporcarsi le mani tutti i giorni nella colla. Questa è la politica. Lei ci vuole dare un'idea? Volete darci un'idea che tutte le ragazze sono come Patrizia D'Addario? Ma lei si rende conto che è tutto un altro mondo che non ha oggi spazio? Ti sto domandando. E nella televisione pubblica. Niente, ti sto domandando. Non riusciva a domandare niente. Questa Augusta Montarulli e Massimo Fini dice c'è da avere paura, no? No, no, a parità di condizioni, io l'ho detto e l'ho anche scritto, adesso anche pensavo anche altri campi naturalmente, a parità di condizioni lei si fa su lui come vuole, perché il maschio è un soggetto elementare, mentre la donna è infinitamente più complessa. Una cosa hanno portato, voglio correggermi un attimo, in politica le donne, per esempio, di diverso. Se guardate bene, anche tenendo conto della che sono molto meno, ma è raro che siano state pescate a rubare, a essere corrotte. Non ricordo esempi. Interessante questa lettura. Ecco. Sulla cosa dell'appiattimento vorrei dire invece, se mi permette, una cosa che è più internazionale, eccetera, per far capire che cosa voglio dire. Per esempio, sul fatto della guerra, le donne non hanno mai amato la guerra, ovviamente. La guerra è un grande gioco maschile, lo era, adesso lo fanno solo le macchine. Vabbè, comunque, è ovvio che non amano la guerra perché, appunto, essendo coloro che procreano e fanno i figli, non gli piacciono questi macelli. Bene, le più guerrafondaie negli ultimi decenni sono state proprio delle donne, cioè l'Albright, Emma Bonino e quella pseudodonna e pseudonera che è Condoleezza Rice. Ma perché dice pseudodonna? Le dico prima perché è pseudonera. Io conosco molto bene i neri, diciamo i neri dell'Africa nera, quelli subsahariani, e sono ironici, autoironici, allegri, sia pur con fondo di malinconia, eccetera. La Rice non aveva nessuna di queste caratteristiche. Vabbè, non è che tutte possono essere ironiche. No, insomma. No, per carità, dico che i neri sono così, ecco perché la chiamo pseudonera. Ah, ecco. Vabbè, pseudonera evitiamo. Io però voglio arrivare, perché siamo alla conclusione di questo articolo. È questa: non fan che provocare sculando in bikini, in tanga, in mini, ma se in ufficio le fai un'innocente carezza sui capelli è già molestia sessuale. Se dopo che ti ha dato il suo cellulare la chiami due volte è stalking. Se in strada, vedendola passare con aria imperiale, le fai un fischio, cosa di cui dovrebbero essere solo contente, che rimpiangeranno quando non accadrà più, siamo già ai limiti dello stupro. Basta, meglio soddisfarsi da soli dietro una siepe. Qui anche Sara Spirafico in redazione ha detto, qui forse Massimo Fini è esagerato, però va bene, con la dichiarazione d'amore confronti delle donne. Questo cos'è? Uno scadimento finale, no? Ma no, era una formula così un po' impressiva, si poteva dire meglio restare soli, ma ho preferito questa qui masturbatoria, perché così, insomma. Mi piacerebbe che riacquistassero, poi naturalmente qui si sta generalizzando come sempre in tutte le cose, no? Ma un pochino più di quella dolcezza che un tempo avevano, che adesso pare abbiano perduto. Ripeto, sono grandi generalizzazioni. La sua via crucis non è finita, stasera so che Giuseppe Cruciani la vorrei chiamare alla zanzara. Aiuto, un'altra... Non so, io domani rispondo a queste lettere mia collega del fatto. Certo. È coso. Ma non pensa di cavarsela così, non è mica finita. Una via crucis. Tra l'altro, io ho scritto 14 libri, di tutt'altro tipo. Questo dizionario erotico, quando, le donne o le ragazze, eccetera, se mi chiedono un libro in dono, mi chiedono sempre il dizionario erotico. Ah, e come mai? E in genere, adesso qui non vorrei diventare veramente maschilista, ma in genere a quelle intelligenti e carine è piaciuto. Alle cesse e alle femministe no, per una frase che c'è che però non voglio ripetere. Fermiamoci qui, grazie. Massimo Fini, tanto stasera la Zanzara, non scappi, stasera sarà la Zanzara, Giuseppe Cruciani so che lo chiamerà. Ringrazio lei, così come Maruska Piredda, consigliere regionale Liguria, Italia dei Valori, Augusta Montaruli, consigliere regionale del PDL in Piemonte, quote rosa in politica, ma non solo, abbiamo parlato di questo. 8.55, lunedì non andiamo in onda, ci riposiamo un attimo, ci sentiamo martedì. Grazie a oltre a Sara Sprefico, a Flavio Su Guardi, oggi in redazione, Peter Bescapè in regia, e do la linea al grande Oscar Giannino.